ci sono certe tematiche sulle quali per un motivo o per l'altro non è possibile non essere tutti d'accordo e che quindi, per logica conseguenza, dovrebbe essere inutile continuare a dibattere. Prendete esempio quella della libertà. Chi non è favorevole alla libertà, chi non è d'accordo? A quella propria siamo evidentemente favorevoli tutti, e quanto a quello altrui, se qualcuno nutre in cuor suo delle riserve, succede ogni tanto, non si azzarderà certo a dichiararlo in pubblico. I problemi possono nascere e grossi quando c'è da decidere in che modo e a che prezzo assicurarla e difenderla, ma sul concetto in sé è davvero difficile non essere unanimi. È per questo che quando qualche figura autorevole parla della libertà come se del suo obiettivo più caro, dà tanto spesso l'impressione di parlare soltanto per dare aria alla bocca. E la tirannide? Trovatemi, se ci riuscite, nella pubblicistica degli ultimi 3000 anni un solo discorso in lode della tirannide. Se con i tiranni e i tirannelli che infestano concretamente il nostro mondo bisogna più delle volte imparare a convivere, a collo più o meno obtorto, per il tiranno in astratto, per l'idea di tiranno, se preferite, non è possibile remissione alcuna. Sul fatto che simili figuri vadano cancellati dalla faccia della terra al più presto, concorderanno anche i governanti più autoritari e i ministri meno liberali. Tutti convinti, non è chiaro perché, che quel termine per definizione non riguarda loro. E anche in questo caso i relativi discorsi suoneranno a orecchie appena un po' esercitate come vuote sparate retoriche senza un contenuto degno di nota alcuna. Dunque, il presidente Bush ha inaugurato giovedì scorso il suo secondo mandato parlando della necessità di difendere la libertà e di abbattere sempre e dovunque i tiranni. Sulla base delle osservazioni di Dianzi, sembrerebbe ovvio concludere che se l'è cavata con poco. O meglio, visto che l'uomo è quello che è e ha dimostrato con i fatti quali siano i suoi disegni e i relativi punti di riferimento ideologico, ha dimostrato che per ricoprire come d'uso di parole solenni lo squallore dei suoi propositi non si è sforzato più di tanto. A leggerlo senza sapere nulla di chi l'ha pronunciato, poco si troverebbe in quel discorso che un medio cittadino democratico di qualsiasi paese occidentale non potrebbe sottoscrivere immediatamente. George W. non ha, che io sappia, compiuto gli studi classici, ma lo avranno fatto probabilmente i suoi collaboratori e ghostwriter. In effetti, quel discorso si collega a una linea che ci porta dritto dritto alla Grecia del V secolo a.C. e alle polemiche degli oratori attici. Anche allora, chi ha frequentato il liceo classico se lo ricorderà, si parlava molto di tirannide e di libertà e della necessità di difendere l'una contro l'altra. I termini del discorso forse erano un pochino più precisi, nel senso che tyrannos, tiranno, nella lingua corrente non era qualsiasi buzzurro insediato in trono, ma soltanto chi vi giungeva senza legittimazione dinastica, senza appartenere a una famiglia a cui spettasse un titolo principesco, ma il discorso più o meno era quello. E siccome quasi tutta la pubblicistica greca che ci è giunta è ferocemente di parte, e di parte di solito aristocratica, come tiranni in quei testi vanno intesi soprattutto i capi del Partito Democratico e gli statisti sostenuti dall'appoggio popolare. È una connotazione di classe destinata a durare più a lungo di quanto si immagini. Nelle lettere italiane, per esempio, è legata al nome di un reazionario allo stato puro, come il celebre Vittorio Alfieri, che visse alle soglie della nostra era, e quando si trattava di parlare dei vari Saul, Creonte, Filippo e altri tiranni letterari, non era secondo a nessuno. Ma quando, svolgendosi i fatti della Rivoluzione francese, ebbe a che fare con degli autentici tirannicidi, cioè col Comitato di Salute Pubblica parigino, si incazzò di brutto e ritenne opportuno tagliare la corda. E per questo credo che l'uso moderno di quel termine ha una connotazione così fastidiosa. Con il tempo le parole cambiano significato, il tirannos specifico antico diventa il generico tiranno moderno, ma qualcosa della loro origine si portano sempre dietro. E quando meno ce lo si aspetta, salta fuori. In fondo non dovevano essere così male i tiranni del buon tempo antico. Di Pisistrato tutti hanno scritto le peggio cose, ma quando si viene ai fatti concreti si scopre stringi stringi che governava con il consenso della maggioranza, proteggeva le lettere e le arti, faceva costruire i primi templi sull'Acropoli e provvedeva a che fosse messa a disposizione di tutti una copia, una edizione accettabile dell'opera d'Omero. Edipo è tiranno nel titolo della tragedia di Sofocle, e noi facciamo male a tradurre re. Ma i tebani sono tutti con lui dal primo all'ultimo, perché li ha liberati dalla Sfinge, e a lui che si rivolgono in un momento di crisi, e fanno bene, perché è lui che fa di tutto per aiutarli fino al sacrificio finale di sé. E del resto, anche se non lo sapeva, il poveraccio era figlio legittimo di Laio, per cui il regno gli spettava di pieno diritto, e il suo problema, in termini squisitamente tragici, non era quello di essere un tiranno, era, al contrario, quello di non esserlo. Chiedo scusa per la digressione. Edipo, si sa, è una personificazione dell'intelligenza umana, e come tale ha poco a che fare con Bush, che quanto a piccole cellule grigie non gode fama di essere particolarmente fornito. Tanto è vero che, dovendo in un'occasione solenne presentare se stesso al mondo, ricorre alle parole più fruste e più ambigue che la tradizione della retorica politica gli mette a disposizione. Come a dire che non è neanche capace, per evidenti limiti culturali, di giustificare sul piano ideologico le proprie azioni e le proprie scelte. Sotto il fragile velo di quelle espressioni auliche e vagamente desuete, di quei richiami classici più o meno occulti, la natura spietata del suo programma, la volontà di dominio che lo permea, il disprezzo per l'identità altrui che lo sostanzia, risultano con un'evidenza agghiacciante. Figlio della nuova aristocrazia del denaro, tanto più potente e spietata di quella antica del sangue, Bush parla di libertà, ma non crede nell'uguaglianza e non saprebbe che farsene della fraternità, due concetti che della libertà da un paio di secoli sono la necessaria specificazione. L'unica opzione vera, l'unica opzione che gli resta, è sempre comunque quella della forza. Non può rendersene conto, naturalmente, ma in senso moderno l'unico vero tiranno, in definitiva, è lui.